America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Do you tweet? I don't tweet. You don't tweet? I don't tweet on a regular basis. No, I think there is a official president's tweet. But some 20-year-old is doing a lot of the tweeting. Il presidente Barack Obama che dice: beh, no, io non twitto, twitta un ragazzo di 20 anni. Il presidente forse è un po' indietro. Mi sono accorto da frequentazioni su Twitter che, beh, twittano un po' tutti. Soprattutto Twitter è diventato uno strumento di lavoro. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Questa settimana a New York, l'ho anticipato ieri, si è aperta una settimana dedicata ai social media, social network, internet. Tra l'altro, apro una parentesi, abbiamo fatto un esperimento, vorrei rifarlo adesso. Chiedo ai nostri ascoltatori cominciare a operare in un contesto di social radio e quindi di fare un passaggio, un travaso dall'ascolto radio a internet, a Twitter. L'abbiamo fatto la settimana scorsa, ha funzionato, ci sono stati risultati piuttosto buoni, abbiamo avuto nel giro di pochi minuti una cinquantina di ritorni con commenti su quello di cui si parlava nel corso della trasmissione. Quindi, visto che parleremo da internet, vorremmo ascoltare naturalmente i vostri pensieri. E parlando, come vi dicevo, di social media, social network e del fatto che a New York c'è questa settimana dedicata a internet, ho con me ai microfoni di America 24 Alberto Tretti. Buongiorno. Dunque, Alberto Tretti insieme a Andrea Vaccari sono due ventottenni. Alberto e Andrea andarono a studiare all'University of Illinois. Lì si fecero venire un'idea e questa idea si è poi tradotta in un sito internet che si chiama Glancy. Glance vuol dire sguardo. Glancy, insomma, è così un po' un vezzeggiativo che consente di avere un nome friendly per una destinazione. .com. La verità, la novità, il fatto importante è che questi due giovani sono riusciti a fare qualche cosa di importante in America e hanno venduto la loro idea proprio a Facebook. Allora, Alberto, raccontaci intanto la vostra storia. Allora, noi siamo andati in America ben 6 anni fa. Siamo andati con un programma di doppio scambio tra il Politecnico di Milano e la University of Illinois a Chicago. E, scusa, ben 6 anni fa vuol dire che avevate 22 anni dunque quando siete arrivati. Esatto, stavamo facendo la laurea specialistica al momento. E scusami, consentimi di aprire una parentesi nella parentesi, perché noi dedichiamo nella nostra trasmissione anche spazio a chi dall'Italia compra un biglietto di solo andata per l'America. Voi in questo momento siete rimasti in America tutti e due, quindi in qualche modo avete comprato un biglietto di solo andata. Assolutamente, ancora anni fa presi la decisione di prendere un biglietto di sola andata e da lì non si torna indietro. Quindi restate in America. Lo sapevi già allora che sarebbe stato un biglietto di sola andata? Non c'è stato un momento in cui ho preso la decisione finale, è stato più una serie di cose, che motivi di studio, di lavoro che mi hanno portato a continuare la mia carriera negli Stati Uniti. E adesso ormai ho una ragazza da 4 anni, per cui sono più che contento di rimanere lì. Ecco, Alberto, dunque, quindi la tua vita in questo momento è in America, ma torniamo al vostro prodotto, Glancy. Come nasce, come capita che dei giovani all'università si fanno venire un'idea e poi di fatto costruiscono un'impresa? L'idea è nata quando io e Andrea eravamo coinquilini in un appartamento vicino all'università e Andrea aveva appena comprato questo iPhone e stava cercando per un'applicazione che ti permetteva di sapere chi c'era attorno a te, quindi se c'erano degli amici nelle vicinanze un'applicazione ti permettesse di metterti in contatto con le persone vicino e però non trovò nulla e quindi vide una possibilità, un nuovo spazio in questo campo delle applicazioni mobile per telefoni cellulari che era molto interessante, quindi venne da me, mi spiegò l'idea e mi chiese se di fatto volevo iniziare a fare una startup. Ecco, c'è un aspetto però culturale. A voi questa idea non sarebbe venuta se non fosse stati attivi, diciamo operativi, nel settore internet, del settore del social media, dei social network. Secondo te in Italia siamo abbastanza maturi per poter sfruttare al massimo tutte le conseguenze economiche che oggi derivano dall'uso di internet, dei social network, dei social media, per tenere il passo con evoluzioni che capitano in altri paesi? soprattutto negli Stati Uniti d'America? Siamo sulla buona strada, però sicuramente siamo un po' indietro rispetto come informatizzazione siamo un po' indietro rispetto agli Stati Uniti oppure altri paesi europei come la Germania, per esempio. E internet è una grande locomotiva dell'economia americana. Aziende come Google, Apple, Microsoft e Facebook stessa, appunto, sfruttano internet e generano dei ricavi incredibili che muovono proprio l'economia. Ed è quindi è chiaro che c'è una connessione tra la possibilità di sfruttare internet a fini commerciali e quindi lo sviluppo economico di un paese. Ecco, la settimana scorsa ho fatto una chiacchierata con Luca Conti, avevamo concluso appunto che noi siamo forse 2 o 3 anni indietro, cosa che non è, diciamo, cosa da poco. Ti dirò che avevo anche lanciato un piccolo esperimento che per vedere che tipo di interattività avevamo, per vedere quanti degli ascoltatori che ascoltano per radio sono poi in grado di trasferire il loro diciamo ascolto anche su Twitter, per cui lo ridico, incoraggio, facciamo questo piccolo esperimento per qualche giorno a vedere se c'è in effetti la possibilità di un travaso, di un trasferimento in questo periodo in cui sta avvenendo la trasmissione. Io suggerisco, chiedo ai nostri ascoltatori di andare su @MarioPlatero su Twitter, così vediamo anche quanti seguono Twitter. Secondo me c'è abbastanza una spaccatura, perché i media secondo me non sono equiparabili, chi segue Twitter, la radio, i giornali sono i giornali, però questo esperimento lo facciamo lo stesso per vedere se anche in Italia c'è la possibilità di questo travaso, di questo social networking fra diversi mezzi. Ecco, parlaci di Twitter. Secondo te Twitter è importante nel contesto del social media? Voi avete fatto l'accordo con Facebook, ma vediamo Twitter, secondo te che ruolo ha? Twitter è sicuramente un fenomeno molto interessante, perché nasce da un'idea molto semplice, che è quella di fare microblogging per dire la propria con solo 140 caratteri. E quindi c'è un'idea di poter fare, di tastare il polso del mondo semplicemente leggendo quello che la gente posta in tempo reale su Twitter. Quindi informazione in tempo reale. Però informazione in tempo reale è quello che avete fatto un pochettino anche voi con la vostra applicazione. Esatto. Come funziona? Qual è il business model? Glancy è un'applicazione per iPhone e per Android che ti permette di sapere chi c'è attorno a te, quindi quali sono le connessioni che hai con le persone che sono vicine a te, se c'è gente che ha amici in comune oppure persone che hanno i tuoi stessi interessi oppure hanno lavorato nello stesso posto. Quindi noi prendiamo il tuo profilo di Facebook, che di solito è relegato al mondo digitale dietro un computer, e lo integriamo mettendolo nel tuo telefono, lo integriamo con la tua geolocalizzazione, quindi con la tua posizione nel mondo reale. Ecco, Alberto, tu sei di Vicenza, giusto? Esatto, Andrea di Verona. Quindi due veneti che hanno lasciato il nord-est per andare in America. Avete altri obiettivi, altre idee? Noi siamo contentissimi di questa nuova avventura che sta per iniziare in un'azienda dinamica e recitante come Facebook. Poi chissà dove ci porterà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cosa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la grande corsa di Indianapolis 500, 27 maggio, c'è sempre una madrina che canta, Martina McBride in questo caso, canterà l'inno nazionale americano. E dunque a lei dedichiamo la canzone del giorno di Martina McBride, Marry Me. Marry me today and every day. Marry me if I ever get the nerve to say hello. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.